Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Siete disposti a dimenticare quel che avete fatto per gli altri e a ricordare quel che gli altri hanno fatto per voi? A ignorare quel che il mondo vi deve e a pensare a ciò che voi dovete al mondo? A mettere i vostri diritti in fondo al quadro, i vostri doveri nel mezzo e la possibilità di fare un po' di più del vostro dovere in primo piano? Ad accorgervi che i vostri simili esistono come voi e a cercare di guardare dietro i volti per vedere il cuore? A capire che probabilmente la sola ragione della vostra esistenza non è ciò che voi avrete dalla vita, ma ciò che darete alla vita? A non lamentarvi per come va l'universo e a cercare intorno a voi un luogo in cui potrete seminare qualche granello di felicità? Siete disposti a fare queste cose, sia pure per un giorno solo? Allora per voi Natale durerà per tutto l'anno. Harry Van Dyke. Buongiorno a voi, buongiorno da Nicoletta. Dedichiamo questa poesia ai protagonisti di questa puntata, i volontari. Sono circa 1 milione e a vederli sono persone assolutamente normali, padri di famiglie, mamme, pensionati, ragazzi, ma a differenza di tanti non aspettano Natale per scambiarsi doni. Per loro ogni giorno è una buona occasione per regalare qualcosa di sé a qualcuno, che può avere il volto di un anziano, di un malato, di un disabile, di un senza tetto, di un bambino. Spingono carrozzine, distribuiscono pasti, regalano ascolto, gesti, sorrisi e sono ripagati da uno sguardo, da un sorriso, da una parola. Ma chi sono in realtà i volontari? Che cosa hanno di diverso? Perché soprattutto cosa li spinge a ritagliare spazi del loro quotidiano da condividere con persone con cui, diciamocelo, non hanno legami né di sangue né di amicizia né di parentela? Se siete volontari siete invitati a darci una risposta raccontandoci la vostra esperienza 800 24 00 24, ma chiamateci anche per raccontarci se l'incontro con un volontario ha aggiunto qualcosa alla vostra vita. Magari qualcuno è venuto a trovarvi quando eravate malati, oppure vi ha ascoltato quando nessuno sembrava avere il tempo di farlo, o vivete grazie al dono di qualcuno. Sto pensando a chi ha bisogno di sangue o ha potuto fare proprio un intervento grazie alla disponibilità di qualcuno. 800 24 00 24. Oggi di questo parliamo, di che cosa regalano i volontari, ma anche come magari l'incontro con un volontario ci ha cambiato la vita. Inizio a presentarvi subito la prima ospite. In linea con noi abbiamo la dottoressa Laura Ravaioli, psicologa a Forlì. Buongiorno dottoressa, benvenuta e tanti auguri. Buongiorno, tanti auguri anche a voi. Dottoressa, che cosa hanno di speciale i volontari? Sono gli eroi moderni? Beh, io direi, ma intanto parlo un po' come psicologa impegnata appunto nella formazione dei volontari e delle attività socioassistenziali, ma anche come persona che è stata a sua volta volontaria. Secondo me è molto importante chiedersi che cosa spinga a scegliere di svolgere un compito difficile e per di più non pagato. E, insomma, non è certo per svago e secondo me guardarsi bene dentro si scopre spesso che non è, o comunque non è solo per bontà d'animo. È perché forse si riceve qualcosa in cambio di molto più importante del denaro, insomma questo dono è la felicità negli occhi di chi aiutiamo e anche l'ammirazione della persona che aiutiamo o degli altri in generale. E, probabilmente però ci possiamo anche chiedere perché per alcune persone queste cose sono così importanti. E a me piace ricordare le parole di Aldo Carotenuto, che in chi sceglie le professioni di aiuto vede una piccola ferita che funge anche un po' da feritoia, cioè quelle persone che hanno sperimentato delle esperienze dolorose, ecco, ma non devastanti nell'infanzia, sviluppano una piccola ferita aperta che diventa poi anche la feritoia attraverso cui vedono, si identificano con la sofferenza degli altri, riescono a empatizzare con loro e questa ferita anche li spinge ad aiutare. Ecco, è importante che la ferita non sia troppo grande e lacerante, ma neanche, se si vuole mantenere proprio questa capacità di empatia, che si rimargini del tutto. Ma io mi chiedo, questa spinta nei confronti degli altri, vogliamo chiamarla altruismo, è innata o si acquisisce? La risposta pensata a questa annosa questione si racchiude forse in una sigla, AVPR1A. Ne parliamo, per saperne di più, con la dottoressa Maria Giovanna Luini, responsabile della comunicazione scientifico di IEO e scrittrice. L'ultimo suo successo è Cosa fanno le tue mani. Dottoressa Luini, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, che cosa dice la ricerca? La ricerca è bellissima, la notizia è molto buona perché in realtà noi nasciamo generosi. Il nostro DNA nasce con un gene che si chiama AVPR1A che regola nel cervello alcuni ormoni legati al nostro comportamento sociale, incluso l'altruismo. In pratica succede che nello stato di normalità, anche nei bambini molto piccoli, il gesto generoso viene immediatamente seguito da un rilascio di alcuni ormoni neurotrasmettitori nel cervello che regalano benessere. L'egoismo non è uno stato naturale, è una alterazione di quel gene. Quindi chi nasce con il gene normalmente programmato è generoso e da questa generosità trae gratificazione. Chi invece è egoista, a quanto pare, o ha accumulato alcune esperienze molto dure nella vita e ha reagito male, oppure ha quel gene mutato. Direi che non poteva esistere migliore dimostrazione della assoluta naturalezza e origine genetica della generosità. Questa mi piace molto, io la ringrazio dottoressa, tra l'altro lei lavorando allo IEO è a contatto anche con molti volontari. Sì, sì, la loro opera è veramente preziosa e importante. Una cosa che voglio dire è che le persone che hanno avuto loro stesse una malattia tumorale o parenti con malattia tumorale spesso si dedicano poi ancora di più agli altri e questo è veramente un segno meraviglioso di reazione anche a eventi della vita che sono difficili. Quindi riprendiamo un po' il concetto che ci aveva così espresso la dottoressa Ravaioli rifacendosi a Carotenuto, la ferita che è una feritoia. Sì, sì, è un'opportunità purtroppo, chiaro che vorremmo tutti evitare il dolore, però il dolore può essere anche una forte fonte di insegnamento, dipende poi da come riusciamo a reagire. Quindi possiamo chiedere, dottoressa Gatti, ai nostri ascoltatori, tutti siamo quindi portatori di questo gene, questo sì. AVPR1A, quindi chiamateci, sì. 800 24 0024 per raccontarci che cosa vi ha spinto a diventare volontari e come questa esperienza vi ha cambiato. Dottoressa Gatti, grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata, buon anno. Perché qualcuno dice che la generosità, se è sincera, è contagiosa. Se questo è vero, allora contagiateci con le vostre storie. Siamo pronte per affrontare le conseguenze di questa meravigliosa e salutare epidemia. Daniele, buongiorno da Rimini. Buongiorno a voi. Buongiorno. Intanto auguri. Grazie altrettanto anche a tutti gli altri ascoltatori. Ci vuole raccontare una sua esperienza? Ci vuole mandare un appello, Daniele? Ma certo, nel senso, io intanto vi ringrazio per il tema trattato perché credo sia davvero molto importante al giorno d'oggi parlare di volontariato, soprattutto nei termini in cui viene fatta la trasmissione. Ricordiamo che questo è un anno molto importante per il mondo del volontariato e del terzo settore, no? Esatto, è stato designato dalla Commissione europea proprio il 2011, anno europeo del volontario. L'anno sta per finire, vogliamo un pochino tirare un po' le somme. Io posso tirare le somme personali, nel senso che quest'anno è stato il mio settimo anno di volontariato continuativo all'interno di una associazione che è peraltro anche abbastanza famosa perché si tratta di Croce Rossa Italiana, nella quale 7 anni fa ho deciso di entrare, anzi forse anche un pochino più tempo ormai, ma inizialmente spinto da quello che probabilmente spinge quasi tutti i volontari che decidono di avvicinarsi verso questa associazione, cioè il fascino di quello che può rappresentare l'ambulanza. Sì. Salvo poi nel momento in cui sono entrato all'interno di questa associazione mi sono innamorato di una serie di servizi pressoché infinita che Croce Rossa Italiana dà la possibilità di effettuare sul territorio, quindi attraverso gli strumenti che l'associazione ti offre, andare in contatto con tutte quelle persone che sono più bisognose e sono i più vulnerabili, parliamo di bambini, anziani, disabili. E io personalmente mi sono sempre occupato della parte a più forte marginalità, quindi certo. L'unità di strada con i senza fissa dimora, piuttosto che i ragazzi che usufruiscono del in qualche modo questa esperienza l'ha cambiato? Profondamente, io credo, e era molto vero quello che si diceva prima, cioè nella mia vita ho sperimentato il dolore soprattutto da giovane ed è indubbiamente un dolore che non è stato lacerante e che fortunatamente ho anche metabolizzato in maniera abbastanza costruttiva e positiva. L'ho detto spesso anch'io che probabilmente un po' il dolore riesce a essere il motore della vita. E devo ammettere che fare del volontariato mi ha dimostrato intanto come è inutile piangere su se stessi, perché io vedo veramente quotidianamente delle persone che stanno molto peggio di me o di tante altre persone che io conosco, certo. Ma non si piangono addosso come spesso siamo tentati di fare, riescono a trovare dentro di sé una forza meravigliosa e questa cosa penso che mi arricchisce molto. Io da volontariato, oltre a dare, ho ricevuto tanto. Grazie Daniele, questo è un po' il messaggio che mi arriva dai vostri, scusate la ripetizione, messaggi, cioè dei vostri sms che stanno arrivando al 349-238-6666. Ma ci sono altri ospiti con noi. Abbiamo il dottor Aldo Zino Calligares, presidente nazionale FIDAS, la Federazione Italiana Associazione Donatori di Sangue. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Anzi, possiamo darci del tu, perché è vero che tra i volontari vige il tu? Sì, sì, assolutamente. Okay. È un ottimo modo di comunicare, immediato, e che non crea barriere e distinzioni. Tra i volontari siamo tutti uguali. Abbiamo in linea con noi Anna Mauri, che presta la sua azione di volontariato presso l'Opera San Francesco di Milano. Anna, benvenuta anche a te. Grazie mille, buongiorno a tutti quanti voi e auguri di buone feste. E Regina Sironi, segretario ABIO. Regina, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Abbiamo scelto tre forme di volontariato molto diverse, vorrei dire tre gocce in questo mare di solidarietà che è grande e variegato. Aldo, donatori di sangue, volontari, non siete eroi, naturalmente a me piace definirvi acrobati della generosità, eppure voi, pur non essendo eroi, pur facendo una vita assolutamente normale, donate qualcosa di molto speciale, di vitale, di unico. Qualcosa che non si può comprare. Produrre in laboratorio, qualcosa che non si può produrre nelle industrie farmaceutiche. Il sangue è una necessità per tanti ammalati, è una necessità per persone che hanno bisogno di essere curate, di essere guarite. E l'unico modo per poterla avere è attraverso un gesto di volontariato, un volontariato responsabile, anonimo, gratuito. E un volontariato, direi, che fa parte di un tessuto sociale, fa parte di una condizione che è un'appartenenza etica e morale al nostro vivere civile. Aldo, come hai pensato, come sei diventato volontario? Adesso poi, insomma, sei presidente nazionale della FIDAS, ma c'è stato un momento in cui tu hai detto vado. Che cosa ti ha spinto? Ho incominciato a donare il sangue a 18 anni, però devo dire che anche per me vale un principio che è nato prima. All'età di 14 anni mio papà ha avuto necessità di sangue per poter essere operato proprio nei giorni di Natale. Non c'era questa disponibilità e l'intervento rischiava di essere rinviato. Lì ho capito l'importanza di poter garantire a tutti gli ammalati questo presidio insostituibile per la salute. E allora mi sono ripromesso di incominciare a costituire con i miei compagni di scuola, con gli insegnanti della scuola dove frequentavo, con i genitori dei miei compagni di scuola, un gruppo di donatori. E allora è incominciata questa mia avventura, che non sapevo che mi avrebbe portato sicuramente dopo tanti anni a diventare addirittura presidente nazionale di una delle più importanti associazioni e federazioni nazionali. Non posso vedere un bambino che soffre, è un dolore troppo grande, un'ingiustizia, mi stringe il cuore, non potrei, Regina. Voi invece trovate proprio il coraggio di sedervi accanto ad un bambino in ospedale, di dedicargli il vostro tempo, le vostre attenzioni e anche di aiutare i genitori di un bambino malato, di una famiglia, no? Che si trova ad affrontare una situazione di grande difficoltà, per regalare magari loro un po' di tempo da passare, magari, no? Per uscire un pochino dall'ospedale. Certo, no, in realtà tutti quelli che hanno provato ad avere un bambino ammalato sanno che momento difficile sia quello, ma sanno anche che si può di nuovo, come è stato detto, far diventare questo momento un pochino meno gravoso per il bambino e per la propria famiglia. Certo, il dolore del bambino è qualcosa che sconvolge profondamente tutti, però è anche vero che questo dolore deve trovare una valvola di sfogo, e per il bambino naturalmente la cosa più normale, immediata, è il gioco, un ambiente che sia meno faticoso come quello dell'ospedale, meno distante dalla sua vita di tutti i giorni, e quindi ricostruire per lui il suo mondo di bambino sano, normale, anche in ospedale, è un pochino il nostro messaggio fondante, ma insieme il discorso della famiglia, perché è la famiglia che viene colpita profondamente nell'affetto, nell'ansia, nella paura di quello che sarà il domani, di quello che verrà fuori come diagnosi dal momento in ospedale. Tutto questo diventa uno stato di angoscia e i volontari si dedicano a tutto questo perché pensano, sperano, sono convinti di poter in qualche modo dare un sorriso, dare una speranza, dare un momento di attenzione e di disponibilità. Mi scrive un ascoltatore dicendomi: io sono volontario e non sopporto la retorica sul tema. I poveri non sono sempre così amabili come si crede. Allora vorrei commentare questo SMS con Anna. Buongiorno. Anna, tu lavori all'Opera San Francesco per i poveri che, oltre a soddisfare i bisogni primari, reali di persone in gravi difficoltà, offre anche loro ascolto e protezione. Tu lavori nella mensa, giusto? Esatto, io sono una volontaria. Cosa dici di questo messaggio che è arrivato fresco fresco? Ci sono state delle situazioni in cui, servendo magari pasti caldi alle persone che frequentano l'Opera San Francesco, tu ti sei dovuta in qualche modo insomma stringere i denti e dire: mamma mia, che caratteraccio, oppure guarda che io sono qua per dedicargli del tempo e guarda lui come mi tratta? Allora, innanzitutto dobbiamo pensare che le persone che noi abbiamo davanti, chi ci sfila davanti, sono delle persone, sono persone come noi, quindi con i loro caratteri, e in questo caso parliamo anche di persone che vivono situazioni di profondo disagio, persone che hanno delle storie anche molto drammatiche. Io sono consapevole, facendo volontariato in mensa, che posso trovarmi di fronte a delle persone che possono anche non essere particolarmente gentili, magari possono essere un po' scorbutiche, ma lo siamo anche noi nella nostra quotidianità, senza avere i problemi di grave disagio che vivono queste persone. Per la mia esperienza personale, ripeto, io sono 7 anni che faccio volontariato in mensa, io posso solo dire di aver incontrato delle persone con una grande dignità, delle persone che mi hanno umanamente permesso di crescere, delle persone che molto varie, con storie molto varie, con che però ti formano. Dei begli esempi di persone, certo, ripeto, come incontriamo al lavoro, per strada, sui mezzi pubblici, delle persone scorbutiche, certo, si trovano anche in mensa, ma è una cosa assolutamente... È un microcosmo che ha le stesse dinamiche della società in cui viviamo. Dottoressa Ravaioli, abbiamo così fatto un primo giro di tavolo, ascoltato le tre esperienze diverse, ma cosa hanno in comune questi tre tipi di volontariato? Mi sembra che in tutti i casi ci sia una buona consapevolezza delle emozioni e di ciò che muove a fare dare questo aiuto, ecco. E io credo che sia molto molto importante. Su quest'ultima cosa anche volevo aggiungere, in realtà, anche che la persona disabile o la persona che vive comunque una situazione disagiata è una persona che sente comunque di aver ricevuto una forte ingiustizia spesso, quindi sono spesso persone anche che potremmo dire sono giustamente anche arrabbiate, e che far emergere, che il fatto che loro possano far emergere anche queste emozioni a volte di rabbia, certamente nel limite anche della relazione con l'altro, è in un certo senso anche positivo. Certo. Ecco, dicevamo, ecco, la consapevolezza anche delle emozioni, che è importantissima nelle professioni proprio d'aiuto e per il volontario, proprio perché permette in qualche modo di salvaguardare il proprio strumento di lavoro, il nostro strumento di lavoro, di assicurarsi una certa incolumità psicologica e di chiedere anche aiuto, quindi se ci si trova in difficoltà, di rallentare il ritmo, quello che noi chiamiamo staccare, e più in generale anche di non rischiare proprio quella situazione di stress e di logoramento psicofisico che viene poi chiamata sindrome da burnout. Insomma, io però credo che i volontari siano persone comunque un po' speciali, perché sanno coltivare il sentimento della reciprocità, che insomma conoscono il piacere di restituire ciò che la vita e le persone che hanno incontrato hanno dato loro. Intanto voglio sentire Tina, che ci chiama da Roma, e Marco da Latina. Poi molti di voi mi stanno chiedendo: ma come si fa a diventare volontariabio, come si diventa donatori del sangue, perché uno può scegliere di prestare la propria azione di volontariato nei confronti dei bambini e non magari dei disabili, come si fa a scegliere la forma di volontariato più adatta a noi? Di questo ne parleremo sicuramente, ma prima voce a Tina. Buongiorno Tina e benvenuta. Grazie, buongiorno a voi tutti. Conduce lei, fa lei le domande oppure posso andare io? No, se lei ha un... No, assolutamente Tina, se ha una storia da raccontarci o un messaggio da regalarci, noi siamo qui. Sì, io volevo parlare della mia associazione. La nostra associazione si chiama AMSO, che vuol dire assistenza morale e sociale negli istituti oncologici, ed è nata nel 67, oltre 40 anni di vita, ed è nata presso l'Istituto Regina Elena di Roma, ed è stata la prima associazione che si è occupata di volontariato oncologico. Allora poi ne sono nate altre, certo, altre, perché... eccetera. Però la nostra Roma è stata, sul territorio, è stata la prima. È cresciuta, è nata lì presso l'Istituto Regina Elena di Roma, è cresciuta ed ancora c'è. È un'associazione che offre tanti servizi ai pazienti. Innanzitutto il nostro ruolo istituzionale è la relazione d'aiuto al paziente. Quindi, come arruolate i vostri volontari, Tina? Li arruoliamo mediante un corso di formazione. Pensi che non abbiamo bisogno neanche di pubblicizzarlo, perché adesso proprio è in corso il 63° corso di formazione. Sono più giovani, donne, uomini? Che profilo ha il vostro? Donne di più o meno di età, da anche giovani sui 35, 50, 60, molti che hanno già raggiunto la pensione e quindi possono dedicarsi a questo tipo di assistenza. Anche dei professionisti abbiamo, certo, molti. Tina, mi vuole ripetere il nome della vostra associazione, così lo mandiamo subito al nostro ascoltatore, sì, che vuole saperne di più. Siete dell'AMSO, vero? AMSO, sì, la nostra denominazione AMSO. Essere e benessere. Di dedicare la puntata di oggi al volontariato. Abbiamo un volontario, immagino, in linea, Marco da Latina. Buongiorno. Marco? Buongiorno. Buongiorno a lei, Marco, benvenuto. Grazie. Sì, io porto magari l'esperienza in questi 13 anni di volontariato. Ho 36 anni, ho iniziato i miei 25. E io inizio con le case famiglie, Marco, la richiamiamo. Marco, la possiamo richiamare perché abbiamo la linea disturbata. La chiamiamo dalla regia, la richiamano subito. Invece, Aldo, mi dici che cosa si deve avere per diventare volontari donatori di sangue, i requisiti? Dunque, per diventare donatori di sangue è facile, bisogna avere la maggiore età, 18 anni, e bisogna godere di una buona salute. recarsi spontaneamente, quindi volontariamente, presso un servizio trasfusionale o un punto di raccolta associativo e sottoporsi a un'accurata selezione, che vuol dire compilare un questionario, dare informazioni riguardo al proprio stato di salute e poi fare un'accurata visita medica che stabilisce se la persona che si è presentata, se non è un donatore periodico, è idoneo a fare una donazione del sangue o di un suo componente. Questi sono i requisiti base. È importante essere consapevoli che il gesto della donazione è un gesto responsabile, che serve per poter garantire sempre una terapia sicura e disponibile all'ammalato. Regina, per diventare volontaria ABIO in generale, per così diventare un volontario che presta il suo servizio, dedica il suo tempo a dei bambini, ai bambini in ospedale, quali caratteristiche bisogna avere? È necessario fare dei corsi? Voi come arruolate i vostri volontari? Allora, i corsi di formazione sono obbligatori perché in ogni caso non tutti sono adatti a fare i volontari e non tutti sono adatti a fare tutti i servizi di volontariato. Ciascuno di noi ha delle propensioni, ha delle particolarità, ha delle capacità che devono poi trovare rispondenze nella richiesta che l'associazione fa per dare un servizio adeguato. Quindi nel nostro caso noi abbiamo bisogno di persone che sappiano reggere il dolore del bambino, come si diceva prima, perché comunque in ospedale è la normalità, ma sappiano anche, come dire, trovare sempre il sorriso e la speranza per intrattenere questi bambini e fare in modo che questo passaggio in ospedale sia il meno faticoso possibile. Quindi un buon equilibrio psicofisico e molto buon senso sostanzialmente. Si dimenticava di dire prima che molte delle nostre associazioni di volontariato non fanno solo un'attività assistenziale, ma portano anche avanti delle battaglie di civiltà. In particolare per quello che ci riguarda, noi stiamo portando avanti un percorso di diritti dei bambini in ospedale, che diventano attraverso il manuale di certificazione che abbiamo appena predisposto con Joint Commission e la Società Italiana di Pediatria, una possibilità di valutare il livello di assistenza che i vari reparti di pediatria forniscono, perché questa è la cosa importante, non solo prendersi cura delle persone che hanno bisogno, ma fare in modo che che le necessità di queste persone siano al centro delle varie attività assistenziali anche a livello istituzionale, e quindi anche questo è un compito dei volontari che interpella un po' tutti i cittadini nella normalità del bene, che, cito le parole di Don Rigoldi, sono poi la nostra attività. Niente di eroico, come dicevi tu Nicoletta, ma semplicemente la normalità di persone che hanno vissuto la sofferenza e sanno che si può dare una mano perché questa sofferenza per gli altri sia meno gravosa. Molto semplice. Anna, e che cosa è necessario per entrare a far parte ti dico l'Opera di San Francesco, perché è quella dove lavori tu, ma esatto, ci sono tante realtà molto simili, per fortuna, in tutta Italia. Certo, Opera è sul territorio di Milano, però in realtà in tutta Italia fortunatamente ci sono associazioni che si occupano di emarginazione. Chi volesse entrare a far parte della nostra famiglia a questo punto, perché in realtà è di una famiglia che stiamo parlando, è sufficiente innanzitutto che abbia la maggiore età, quindi compiuti 18 anni. Sì. E abbia voglia di condividere se stesso con gli altri, quindi donare se stesso agli altri, voler essere vicino a chi ha più bisogno. E è sufficiente, magari visitando il nostro sito internet, che è operasanfrancesco.it, dove oltre ad avere proprio un'idea di quello che... Delle attività, esatto, che l'Opera svolge, anche tutti i riferimenti, tutti i dati, quindi il numero di telefono, l'indirizzo, certo, email, dove poter iscriversi e chiedere di entrare a far parte dell'associazione. Dottoressa Ravaioli, ma il problema è questo: una persona desidera diventare volontario, ma non sa qual è la sua, per che cosa è portato. Ci sono i bambini, ci sono i poveri, ci sono le mense, ci sono le associazioni che, come mi viene in mente, Telefono Amico, no? Che prestano ascolto. Come faccio a capire la forma di volontariato più adatta a me? Beh, in questo caso forse può essere molto utile appunto domandarsi qual è il contesto anche in cui mi sento più sereno. in cui sento di poter anche dare di più senza però che questo diventi una situazione di eccessivo sacrificio personale. Questa è una cosa molto importante, bisogna sempre tenere le orecchie ben aperte sul nostro vissuto interiore, sul contesto anche che ci fa stare bene, su cui siamo sereni, perché stare attenti che non diventi né una situazione di sacrificio personale, potremmo dire un po' di immolazione di sé, sì. Ecco, oppure anche che non diventi un contesto in cui che mi serve solo a non pensare ai miei desideri o ai bisogni, come avveniva un po' nella protagonista del bel film Il favoloso mondo di Amélie, in cui la protagonista aiutava gli altri nella risoluzione di alcuni conflitti emotivi, ma al fine un po' di evitare di affrontare i propri. Cioè, ecco, forse a me non piace molto il termine eroe, perché mi sembra una parola appunto molto idealizzata, certo, che fa riferimento a un gesto specifico e secondo me non riconosce invece l'attenzione, la dedizione continua che il volontario deve dare per svolgere bene anche il suo compito. Assolutamente, dottoressa Ravaioli, ma molti dei nostri ascoltatori ci stanno scrivendo: è difficile poi diventare volontario e continuare ad esserlo. Aldo, questo è un tema che abbiamo affrontato tante volte quando abbiamo parlato di donazione del sangue. Ci sono tante persone che donano sangue una volta e poi per una serie di ragioni non lo donano più. Sì, questo è vero. Anche la continuità è importante. È molto importante la continuità e la periodicità. Devo dire che forse uno degli aspetti importanti del volontariato del dono è la consapevolezza di essere utile a qualcuno, far parte di e avere la consapevolezza di appartenere a un tessuto sociale, a un tessuto fatto di tante persone che siamo tutti noi, tutti i cittadini, che in qualsiasi momento potremmo avere bisogno del sangue. Quindi non si tratta appunto di fare dei gesti eroici, ma di ripeterli in maniera sistematica, perché donare il sangue significa garantire questo presidio per chi ne ha bisogno, ma significa anche poi tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Certo. Quindi dal volontariato del dono si fa bene agli altri, ma si fa bene anche a se stessi, e questo secondo me è anche un'ottima motivazione. Siamo riusciti a richiamare Marco da Latina, poi abbiamo Eros da Verona, abbiamo tanti ascoltatori che sono in attesa di parlare con voi a 800 24 00 24. Marco, eccoci. Sì, adesso mi sentite meglio? Adesso ci sentiamo bene. Sì, no, io portavo la mia esperienza. Ho 36 anni, da quando ho 25 anni grosso modo che faccio del volontariato, l'ho fatto in vari ragni, anche soprattutto con minori, ragazzi di strada e case famiglie, almeno negli ultimi 10 anni, e come esperienza mi hanno dato sicuramente molto, ma mi hanno anche tolto sicuramente molto, perché si rischia ogni tanto di fare il super volontario, quindi di farlo a tempo pieno e di trasandare un po' tutto quello che è la vita quotidiana, certo, che giustamente è quello. L'ultimo anno invece ho cambiato completamente, l'ho fatto nel Comune di Genova, nella pubblica assistenza, quindi un settore dove effettivamente, specialmente in Liguria o in Toscana, sono molto forti, quindi il discorso delle ambulanze, servizio alle persone anziane a portarle in ospedale e quant'altro. E nell'ultimo anno mi sono reso conto che effettivamente il volontario è una necessità proprio in Italia, secondo me. Cioè, con il discorso dall'Aquila a quello che è successo anche per le inondazioni e tutto quello che sta succedendo adesso in Italia negli ultimi anni, mi sono reso conto che il volontariato non è solamente una forma di ok, vado, ma ce n'è proprio bisogno. Ce n'è proprio bisogno, proprio. Perché se l'istituzione in qualche punto può arrivare, e lì c'è arrivato quel volontariato, quel ragazzo che la mattina si è alzato, ha preso la palla e è andato a spalare, oppure la persona che magari non è stato parlato, che ha preso l'ambulanza e è andata a raccogliere i ragazzi per strada, è diventata proprio una necessità. Io questo volevo. Grazie, grazie Marco, tanti auguri. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi torniamo subito dopo con le vostre telefonate e anche con una domanda per Aldo, a cui può rispondere subito. I fumatori o comunque chi ha smesso da poco di fumare possono donare sangue, Aldo, sì o no? Sì, sì, chi sì. È che fuma può donare il sangue, l'importante è non fumare poi nelle ore immediatamente successive alla donazione. Questo non è una controindicazione. Certo è che fumare comunque non fa bene alla salute a lungo tempo. Questo. Quindi sarebbe bene comunque smettere. Questo, ecco, è un consiglio per tutti. Smettere di fumare e diventare volontario, perché no? Essere e benessere. Dottoressa Lavaioli, il nostro ascoltatore Marco da Latina ci ha dato uno spunto interessante, cioè che c'è il rischio che il volontario diventi un po' un volontario a tempo pieno, cioè che esondi un po' il piacere di dare agli altri e un po' come lei diceva, no? nel film di Amélie, si usi, non so, questa formula per non ascoltare un po' se stessi. Sì, quello è un po' un rischio, è un qualcosa da tenere presente, appunto, come un po' quelle situazioni che diventano di eccessivo sacrificio, però credo anche che appunto l'altruismo è considerato appunto classicamente anche dalla psicologia una modalità matura, positiva, adattiva, perché proprio permette di mantenere una certa consapevolezza dei propri sentimenti. E quindi quello, mantenere questa consapevolezza, questo guardarsi dentro e tenere bene in mente anche i propri desideri, i propri bisogni, quella è una cosa molto importante proprio per evitare di, diciamo così, richiedere anche al compito di volontariato una gratificazione cioè totalizzante, ecco, che non può essere, ecco, in qualche modo. Ciò che noi, le energie anche che noi mettiamo nel volontariato, è importante anche in qualche modo poi si ricarichino in altri ambiti, che siano assolutamente altri lavorativi o di amicizia, sociali, ecco. Ma il piacere, il desiderio di donare agli altri è solo umano? Questo atteggiamento è presente in altre specie? In linea con noi abbiamo il professor Roberto Marchesini, docente di etologia e zoantropologia, direttore della Scuola di Interazione Uomo-Animale di Bologna. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi. È presente l'altruismo anche tra gli animali? Possiamo usare il termine altruismo? Beh, certamente, diciamo che quasi tutte le specie che hanno cure parentali innanzitutto hanno proprio dei comportamenti di cura, cura prossimale, cura, accudimento, ma anche educazione. Poi abbiamo dei processi di attaccamento molto forti e delle capacità empatiche, e quindi c'è proprio questa forma di anche gratificazione nel mettere in atto comportamenti parentali, comportamenti relazionali e quindi comportamenti di aiuto. Si chiama area epimeletica o area dell'attaccamento. Comunque oggi sappiamo che esistono proprio degli ormoni come la vasopressina, l'ossitocina per quanto riguarda l'ambito dell'attaccamento, e poi abbiamo ambiti che invece come la prolattina per quanto riguarda tutto l'ambito delle cure parentali. Quindi diciamo che esiste proprio una gratificazione del soggetto che mette in atto cure parentali, e lo si vede che a volte anche vanno al di là della specie, per cui possiamo vedere animali di una specie che adottano cuccioli di altre specie. Ad esempio? Ah, per esempio si è visto addirittura leoni che hanno adottato delle antilopi, cioè la loro preda, cani che adottano gatti che adottano ratti. Ci troviamo di fronte a un comportamento che, se da un punto di vista adattativo è nato appunto perché favorire la parentalità favoriva determinati geni, quindi giustamente si è parlato di formule precise del coefficiente di parentela legato appunto ai comportamenti altruistici, però da un punto di vista dell'espressione dell'animale, l'espressione è assolutamente libera ed è basata su un processo gratificatorio, esattamente come il comportamento di gioco, no, del gatto che mette in atto comportamenti predatori sulla pallina anche se ha la ciotola piena, perché non ha bisogno solo di mangiare, ha anche bisogno di mettere in atto determinati comportamenti, quindi questi hanno delle basi che sono assolutamente evolutive, nel senso che proprio come il soggetto si sviluppa mette in atto comportamenti anche che vanno al di là della specie. Professore, grazie per essere stato con noi. Abbiamo fatto un saltino con lei anche nel mondo animale, ma noi ritorniamo a invitare i nostri ascoltatori a chiamarci all'800 24 0024 e diamo la linea a Eros, che ci chiama da Verona. Buongiorno Eros e benvenuto. Buongiorno a tutti i suoi ascoltatori e tanti auguri. Grazie Eros, tanti auguri anche a lei. Niente, io sono il papà di un bambino che ha avuto una grave malattia neoplastica, ha avuto un tumore. Sì. Vedendo praticamente il calvario che ha passato mio figlio, prima sono diventato donatore di sangue. Sì. Che non è stato facile, in quanto sono abbastanza agofobico, ho paura degli aghi. E come ha fatto a vincerlo Eros? Vedendo quante sacche hanno fatto mio figlio, non c'è stata scelta, nel certo. Senso che ti sei sentito quasi in obbligo di stare indietro un po' del sangue che hanno dato. nessuno se lo ha chiesto, nessuno ha forzato, però sia io che mia moglie era donatrice, abbiamo preso questa decisione e io personalmente ho cominciato a donare il sangue, sono qui con l'Avis di Verona. E niente, poi quando le cose sono migliorate nella patologia di mio figlio, adesso noi facciamo un controlli ogni 3 mesi, perché mio figlio ha ripreso la sua vita normale, è tornato a scuola e tutto. E niente, noi siamo entrati come genitori coinvolti nell'associazione. Sì, Eros, la stiamo sentendo. Abbiamo un problema di linea anche con Eros. Grazie Eros, la sua voce si spegne un po', ma grazie per aver chiamato l'800 24 00 24. Regina, abbiamo parlato con insieme ad Aldo dell'importanza di avere una certa costanza, una costanza nell'essere donatori di sangue, ma anche una costanza nel fare volontariato. Soprattutto tu hai avuto occasione di così confrontarti con persone che magari avevano grandi desideri di dedicarsi ai bambini e che poi non hanno retto? Ma questo purtroppo è il tasto su cui un pochino tutte le esperienze che abbiamo sentito vanno a cadere. È chiaro che se noi vogliamo dare sostanza allo slancio generoso di un momento, dobbiamo poi metterci in discussione sulla capacità di tenere poi nel tempo questo impegno, perché il bisogno delle persone e degli altri ha bisogno di essere di trovare uno strumento affinato, quindi non è la prima volta che si fa un'azione completa, efficace, intelligente, è l'esperienza insieme con la formazione che ci aiuta ad essere più capaci di essere d'aiuto. Quindi non il primo giorno che un volontario va in ospedale darà un buon risultato, ma quando sarà nella sua vedrà il reparto come la sua casa e quindi sarà capace di accogliere insieme al personale che cura e di prendersi cura dei bambini e delle famiglie. Quindi la costanza è fondamentale. Assolutamente. Nel tempo. E noi, sempre con costanza, possiamo donare il nostro tempo, le nostre parole, il nostro ascolto e possiamo donare il nostro sangue, come ci ricordava Aldo Zino Caligaris, ma possiamo donare anche gli organi, la donazione da vivente. Ne parliamo con il professor Giorgio Battaglia, primario di nefrologia all'ospedale Santa Marta di Acireale. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi e tanti auguri. Grazie. E buon sorriso a tutti. Grazie professore. Parliamo della donazione da vivente. È una delle grandi cose che noi possiamo fare, regalare agli altri con un gesto di generosità una parte di noi stessi, in maniera molto gratuita. Per esempio abbiamo 2 reni, il buon Dio ce ne ha regalati 2, quindi uno lo possiamo donare in un momento da bisogno. Siamo abituati a quella del cadavere, ma quella del da vivente è veramente il più grande dono che noi possiamo fare alla società, ai nostri cari, durante il pellegrinaggio sulla terra. La felicità, diceva Kicker, è aprire una porta all'esterno. Noi non siamo un'isola, ma siamo un continente, quindi dobbiamo condividere con tutti le gioie e i dolori. La donazione, specialmente quelle da vivente, un pezzo del nostro fegato, noi diamo di nuovo vita, ci sentiamo di nuovo creatori. Professor Battaglia, grazie per essere stato con noi, perché volevo aprire una piccola finestra proprio sulla donazione da vivente, su cui bisogna investire anche soprattutto in informazione. Grazie professor Battaglia, e io vorrei concludere questa puntata con una respirazione. Respiriamo un po' di altruismo, ce lo insegna lo yoga, proprio così, pensate. In linea con noi abbiamo la nostra maestra di yoga, Lisetta Landoni. Ciao Lisetta. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutta la redazione e tanti auguri. Presidente dell'Accademia Kriya Yoga di Milano, nonché la nostra esperta di yoga del nostro Daily Lab. Abbiamo proprio un minuto, vogliamo chiudere con te Lisetta, una respirazione che parla di altruismo, che mette in moto l'altruismo. Sì. Una considerazione molto semplice: quando noi respiriamo, e siamo 7 miliardi di persone sulla faccia della Terra in questo momento, noi respiriamo la stessa aria che respirano tutti, quindi idrogeno, ossigeno, azoto, giusto? Ma questo respiro che ci arriva da questa immaginaria, fantastica pompa di erogazione sempre aperta, gratuita, 365 giorni all'anno, democratica, divina. Quindi, anche respirando, ci rendiamo conto che dobbiamo metterci in rete. Considerare chi siamo e oltretutto spogliamo pure questo termine di qualunque forma di esoterismo. Che cos'è il respiro? Cos'è l'energia? Elettroni, protoni, neutroni. Noi siamo quello. Essere e benessere.